Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ah, stamattina che cosa ti sei mangiato? Che sei qui che mi sembri Gian Burrasca. Ma che stai dicendo? Ma sono serissimo, tranquillissimo. Ecco appunto. Allora, ragazzi, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti. Cioè, sei proprio un cretino. Neanche ho parlato. Perché, che già, perché dalla radio non vedete la faccia da ebete che c'ha stamattina Vaira. Ma che ebete? Abete. Abete. Che faccia da abete che ho io stamattina. Va bene. Silenzio. Allora, concentriamoci un silenzio attimo. Perché qua c'è da dare una notizia che sta molto a cuore alla nostra Rosita Celentano. Ecco, no, a parte gli scherzi, buona domenica a tutti. No, allora dunque, ho scoperto una cosa. Prince, che purtroppo è mancato poco tempo fa, non solo era il re del pop, ma era anche il principe degli animali. Pensate che lui era vegano dal 1990. Mm. Non ha mai smesso, pensa, di difendere i diritti degli animali con il suo stile di vita etico, ma anche con la sua arte, perché lui addirittura ha composto... nel 1998 ha composto una canzone che si intitola Animal Kingdom, contenuta nella raccolta Crystal Ball. In pratica è stato il suo manifesto etico, dove dichiara e motiva la sua scelta di abbracciare una dieta priva. Caspita, questo effettivamente non l'avrei mai detto. Cioè, conoscevo Prince eccetera eccetera, il fatto, esatto, che nemmeno io lo sapevo, che lui fosse così a favore degli animali, che si battesse per i diritti degli animali, non lo sapevo. Ma cioè, hai detto anche PETA, hai nominato anche PETA. Sì, perché lui è stato testimonial di PETA, questa associazione no profit che aiuta gli animali, che addirittura adesso fanno linee d'abbigliamento, le scarpe senza usare la pelle degli animali. E lui, PETA appunto, ha regalato nel 2000 lui ha regalato i diritti di questa canzone all'organizzazione, sì, in modo che tutto quello che incassavano era a sostegno, come si dice, era a sostegno appunto di questa organizzazione. Pensa che lui, in un'intervista che ha rilasciato alla rivista Vegetarian Times nel 1997, aveva fatto delle dichiarazioni nette e particolari, dove è diventata famosa una frase che ora ti leggerai. Sì, aspetta che te la leggo. Allora, compassione è una parola che diventa azione senza confini. Sarà necessario istituire una giornata nazionale dei diritti degli animali e lo faremo quando tutti i macelli saranno chiusi. Fra l'altro, bellissima, fra l'altro anche il testo della canzone di cui vi ho parlato prima è importante, dove lui prende delle posizioni nette. E pensa che nel 2006 PETA lo elegge il vegano più sexy del mondo. Hai capito? Sì, infatti. E lui, ma te piaceva lui come cantante? Da morire. Sì? Da morire. Ma lui era... Wow! Era un genio. Spiega la sua scelta di non mangiare carne e di lasciare vivere gli animali in questo modo. Allora, non mangiare nulla che abbia dei genitori. Non uccidere significa proprio questo. Quindi lui estendeva il concetto di non uccidere a qualsiasi essere vivente avesse dei genitori. Assolutamente, cioè, perché sì, altrimenti è un'uccisione. Cioè, non è che poi allora, c'è un omicidio, non va bene, poi invece sgozza il capretto, quella cosa lì va bene. Assolutamente sì. Mi spiace che non se ne è mai parlato in modo più approfondito negli ultimi anni, perché io che ero una sua fan, per esempio, questa cosa me era sfuggita. Nel 1999 fu accusato di aver indossato una pelliccia in una delle copertine dei suoi album. Ovviamente era una giacca finta e lui, in modo, ecco, come si dice, molto accusatorio, risponde: se fosse stata vera ci sarebbero voluti 7 agnelli per realizzarla, vi sembra una cosa degna? Questa è quella, è la risposta. Grandioso Prince. No, tra l'altro il fatto che una persona così geniale, di così grande levatura, si batta per i diritti degli animali la dice lunga, perché sai che ultimamente si tende a dire ah, ma gli animalisti, quelle robe, quella è una specie di setta. No, allora, ecco appunto, io vorrei che tu spiegassi il significato di setta, perché l'ultima volta che l'ho sentito beh, in bocca a Bissani, che è un cuoco, ha detto che i vegani e gli animalisti sono una setta. È sbagliato far passare questi concetti. Beh sì, ma lì basta leggersi il dizionario, cioè non è che ci vuole... ma probabilmente non ce lo leggono, magari manco ce ne hanno uno in casa. Cosa significa la parola setta? E beh, una setta è quando tu entri in una organizzazione che ti fa delle pressioni psicologiche a livello sociale per le quali poi è difficile uscire. Non è questo l'unico elemento che contraddistingue le sette, ma è una delle condizioni. Cioè, tu in una setta ci entri e alla fine è difficile uscirne. Ci si controlla a vicenda, c'è una gerarchia ferrea, ti condizionano la vita, anche normalmente con i tuoi abbassano parenti. Sì, fanno fare scelte che sono contro il senso comune. E comunque è anche a scopo di lucro, perché chiedono soldi, voglio dire, ci sono dei magheggi. Ma non tutte le sette, ci sono anche delle sette dove non circolano soldi, non è che circoli denaro, però ci sono dei condizionamenti psicologici molto forti, mentre quando uno diventa animalista, se poi non lo è più, nessuno gli va a dire ah ma tu dovevi essere, gli fa pressione nella sua vita sociale, tutto non qualche amico ti piglia per il sì. in giro, però non è che la setta vuole che tu ti distacchi dalla tua famiglia perché la tua famiglia la pensa diversamente da te, capisci? Cioè stiamo parlando veramente di un non senso, quindi chi dice che gli animalisti sono una setta è un ignorante. Esatto. Sappiamo che tanto il mondo è pieno di nazi ignoranti e nazi carnivori. E con questo facciamo una breve pausa. Intanto grande Prince, grazie Prince, per chi avesse voglia di riascoltare le sue canzoni con una consapevolezza in più. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Puntata ricca, ricchissima oggi. Dopo avremo anche una chiacchiera col professor Berrino, ma adesso vi ricordo la mail: chiedimi se sono felice @radio24.it. Ci scrivono in tanti e oggi abbiamo telefonato a un nostro ascoltatore che è Achille, perché ti vuole fare una domanda, Angelo, sul rapporto pettorina collare con il suo cagnolino Jack. Achille? Sì, ci sono. Ciao. Ciao. Ho letto la tua mail carina, però vorrei che raccontassi tu la domanda, no? Visto che abbiamo gli ascoltatori che non l'hanno letta, allora la faccio dire direttamente a te. Perfetto. Niente, un anno fa appunto ho preso questo piccolo cagnolino razza fantasia, come dico io. Razza fantasia è meraviglioso, lo riciclerò, Va bene, va bene. Che ha una razza predominante che dovrebbe essere Jack Russell. Ah, perfetto. Ce l'hanno detto sia due veterinari e in più fa dei salti e delle corse che sono proprio tipiche da Jack Russell. Perché? E in più, sì? No. E tu ci chiamavi per... Sì, ci chiamavo perché appunto, visto che quando uscivamo per a passeggio lui, naso a terra, partiva da annusare ovunque... sono venuto a conoscenza appunto di questo gruppo cinofilo della Croce Rossa, sì, che va a cercare le persone disperse, e mi sono iscritto anch'io perché ti piaceva, no, come idea. Che mi piaceva l'idea. Ottimo. Poi io ho sempre voluto fare qualcosa per gli altri, purtroppo donare sangue non riesco per la paura, ammetto. Invece poi in Croce Rossa, poi se vedo andare in Croce Rossa, andare in ambulanza, se vedo sangue magari svengo io a lasciare. Questa cosa qui mi è sembrata fantastico, unito dilettevole. Fra l'altro lo dico anche a casa, no? Allora, il cane è un animale che non ha bisogno soltanto di coccole, è una cosa che forse in passato abbiamo già detto, però la ridico, cioè soprattutto poi quando si tratta di cani piccoli, abbiamo la tendenza, soprattutto le donne hanno questa tendenza a vivere soltanto la dimensione dell'affettività, no? Ti faccio le coccole, ti nutro, ti coccolo, ti tengo con te e basta. Mentre il cane è un animale che ti guarda con aspettativa, cioè ti guarda e ti dice che cosa facciamo, ha bisogno di fare delle cose assieme, bisogna esplorare anche la dimensione della cooperazione, del gioco, dell'esplorazione. Vedi, capisci? Io sto, sto dicendo delle cose assieme. Importanti, qui abbiamo proprio capito la parte che... Non è vero, sto facendo la parte così, ma non è la mia parte no, vera. No, vabbè, no, comunque... è verissimo, lo vedo in mia moglie, ecco, è verissimo. Vedi. Le donne tendono a fare quello. Quindi meno male che ci Achille ha deciso di fare protezione civile, cos'è? No, Croce Rossa. È proprio Croce Rossa, l'unica cinofila che va a cercare le persone disperse, abitando io in una zona molto boschiva e tutto. Benissimo. Poi, la domanda nasce proprio dal fatto che ho letto il tuo libro, che mi ha aperto un orizzonte. Pensa, anche a me l'ha aperto, mi ha aperto così tanto, ecco. l'orizzonte che mi ci sono fidanzata, dopo aver letto quel libro. A tal proposito apro una parentesi in favore di Rosita, Angelo, e chiedigli la mano, perché... Ma anche tu ci metti, non ho capito. Cioè, ma... sono puntate su puntate. Allora, scusa, questo momento. Vergognati. Lo dovrai fare in diretta. Qual era la tua domanda, Achille? Quella che ci hai detto nella mail? Sì. Va bene, chiudiamo la parentesi. Che stasera poi facciamo con un po' di creta un bel vaso. Da notte. Sì. Coi fantasmi. Grazie, Achille, comunque. Niente, no, prego, allora, andiamo al punto. Non mi ha telefonato prima. No, no, allora, appunto, no. Achille, non dar le corde. Allora, dicevamo, qual era la domanda della tua mail? No, appunto, allora, visto che sul tuo libro parlavi molto del fatto di usare la pettorina e non, sì, il collarino, sì, io ho sempre seguito questa indicazione, sì, infatti mi trovo anche bene. Uh-huh. Quando sono arrivato lì al corso, ci sono due fasi, la parte lupetti, chiamata così, dove ci sono i fondamentali, quindi il richiamo, il seduto, il terra, quelle, uh-huh, questi, sì, fondamentali. Sì. E tra l'altro, grazie al tuo libro, già il mio sapeva abbastanza fare, bene, li ho rinforzati in questo modo. Benissimo. Nello step successivo, che andrà a fare tra qualche mese, mi hanno già anticipato, sarebbe meglio mettergli un collarino. Ah, io non ho ribattuto nulla, anche perché ho visto che non insistevano. Devo dire che loro non usano, lo anticipo perché, uh-huh, magari non usano metodi coercitivi quei, sì, cani, anzi, sì, usano i metodi che anche tu insegni, uh-huh, quindi li premiamo, coccole, un sacco di premi, un sacco, okay, di coccole per fargli fare cose. Quindi, okay, l'unica cosa che devo dire, ho storzato un attimo il naso, però fino a che non me la impongono, ma non penso, okay, sarà il collarino. Cosa è successo? Poi ho visto anche un'esercitazione, perché andiamo a fare l'esercitazione sul, uh-huh, campo, e una prova, una simulazione. In questa simulazione la persona che portava il suo cane, che era un bellissimo border collie, aveva il guinzaglio normale con col collarino, uh-huh, al momento di lasciare il cane per andare a cercare gli ha messo una pettorina, sì, sì, e poi l'ha lanciato. Allora mi sono, visto che tu nel tuo libro ad esempio fai un esempio bellissimo, che è quello dei cani dell'esercito, che, sì, devono stare a sinistra, sì, perché in effetti il conduttore ha l'arma che, sì, dovrà usare, sì, con la destra, mi sono domandato, e per quello vi ho scritto, magari in questo caso è vero che devo usare il collare, perché, ah, okay, ho, okay, un capito, magari è una di quelle situazioni, no, va bene. Parto dal presupposto che, sebbene il mio metodo sia diverso cioè, rispetto al metodo degli altri, quindi non è che voglio dire che loro sbagliano a fare le cose, ti dico che cosa ho imparato io, no, in tutta questa esperienza. Per chi ci sta ascoltando, quello a cui si riferiva Achille, che è scritto sul mio libro, è che l'usanza di tenere il cane a sinistra deriva dai cani militari, perché con la destra si impugna l'arma e si saluta, quindi il cane deve stare a sinistra. Quindi se si usa lì, ha un senso lì, con il cane a sinistra, non è che poi le persone e i loro cani nella vita di tutti i giorni devono per forza avere il cane a sinistra. Il cane, anzi, durante la passeggiata ha necessità di esplorare e rilassarsi. L'ideale sarebbe avere un cane libero. In città non lo si può fare, per questo che io consiglio un guinzaglio lungo e la pettorina, perché la pettorina consente al cane di abbassare più agevolmente la testa, di essere più libero, di poter comunicare meglio con gli altri cani. Ci sono diversi studi che mostrano come il collare possa essere dannoso a livello proprio organico, quindi a livello della cervicale, può provocare con dei cani che tirano atassie, problemi di circolazione dei lobi frontali, mentre sulla pettorina non atassie? Esiste. Le atassie sono delle, diciamo, dei movimenti involontari causati da pressioni particolari. Quindi provoca problemi di deambulazione poi alla fine, no? Se ho detto bene, perché non sono veterinario, se ho detto qualche castroneria mi aiuterà qualche amico veterinario, guarda Angelo che hai detto una cosa imprecisa, va benissimo, però provoca questa cosa qui. Allora, quindi questa è la prima cosa, sono a favore del guinzaglio e pettorina. Naturalmente ci possono essere delle eccezioni, per esempio io ho avuto un cane che aveva un mastocitoma nei pressi della zampa anteriore, la pettorina non poteva portarla, quel cane portava il collare. Molte persone mi dicono: vabbè, ma io tanto il mio cane non tira, quindi magari gli metto il collare. Bene, io ho visto recentemente, sono stato relatore in un evento aziendale dove c'erano degli addestratori bravi che lavoravano tanto, avevano tutti quanti il collare e ogni minuto un paio di trazioni a quel collare per tenersi il cane vicino, perché il cane tirava, gliele davano, e quindi anche lì quei cani sarebbero stati meglio con la pettorina. Qualcuno dice in protezione civile, in ricerca, eccetera, quando tu passi dal collare alla pettorina, mettere la pettorina sul cane attiva una sorta di rituale per cui il cane riconosce il fatto che sta per andare a cercare, ma questo nella mia personale esperienza non è necessario. Cioè tu puoi tenere tranquillamente il cane alla pettorina sia prima che dopo, perché il cane comprende da una serie di fattori che sta per andare a cercare, quindi non è necessario. Normalmente chi usa il collare, dico normalmente perché non è così per tutti, lo usa perché a volte deve dare delle correzioni cosiddette, cioè qualche strattoncino, magari deve attirare l'attenzione del cane, eccetera. Anche queste sono cose che io non trovo necessarie. Ho degli amici anche che lavorano in protezione civile, quindi fanno ricerca, che hanno i loro cani con la pettorina e fanno perfettamente il loro lavoro, quindi questo a sostegno di questa roba qua. Quindi senza nulla voler togliere all'associazione di alla Croce Rossa nella quale tu stai andando a lavorare, il mio parere è che il collare non sia necessario, ma naturalmente loro potrebbero avere i loro motivi, le loro spiegazioni. Toccherà a te ascoltare che cosa hanno da dire e poi fare una scelta, o chiedere magari a loro se è lo stesso se tu metti una pettorina, se puoi provare a fare così. Magari se non l'hanno mai provato, di provare per la prima volta a vedere se riescono a fare le stesse cose con la pettorina. Con la pettorina, esattamente. Sempre sulla pettorina, un'altra domanda. Tu sì. Dici sempre pettorina d'acca. Io in realtà sì. Sto usando la pettorina, non so definirla, quella... Quella norvegese. Si infila... Sì, a 8? Sì, esatto. Sì, no, non è a 8. No, si infila dalla testa o dalla testa e poi si chiude sotto la pancia, sì. Diciamo. Guarda, è la pettorina va che usavo... Va bene uguale o... Io va bene, sì, va bene uguale. Io l'ho usata con Lucky, quella pettorina, ha il vantaggio che si infila ancora più facilmente. Sì. Diciamo che la distribuzione della pressione sul corpo, secondo me, è fatta meglio con una pettorina d'acca. Però non formalizzarti troppo, se per te va bene, sai che va bene anche così. Insomma. Senti Achille, grazie dello sponsor che mi hai fatto prima con Angelo. Senti, qualunque altra cosa scrivici, prego. Che magari ti richiamiamo. E così ci fai sapere, magari grazie ci tieni mille. Al corrente cosa succede lì con i tuoi corsi con la Croce Rossa. Sì, io proverò ad andare avanti con la pettorina, sì. Spiegando le mie motivazioni, vediamo, anche perché vediamo il cane si sta comportando bene, quindi non... Bravo. Anch'io sono d'accordo sull'idea che non cambia, cioè se il rituale è lo slacci già, slacciarlo dal guinzaglio in quel momento, digli due parole e indicagli la direzione dove deve andare a cercare il cane, penso che già lì sì, ma lo capisce da mille altri fattori, vedrai, il fatto che tu ti stai avvicinando, l'attesa prima, vedrai. Va bene, grazie mille Achille. Salutaci grazie Jack. Mille, a presto. Ok, sarà fatto, ciao. Una breve pausa e torniamo subito. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Qua. Dunque Rosita, adesso abbiamo in onda una persona che tu stimi moltissimo. Moltissimo, sì, veramente tanto. E, insomma, è molto seguito anche sul web, no? Ci sono, ogni volta che ne parli in giro la gente ah sì, dice ma anch'io sì, lo sì. Seguo. Allora chi è, svegliamo l'alcano, il professor Berrino. Ora, il professor Berrino è presidente di un'associazione che si chiama La Grande Via, sì. Che io ho fatto un giro sul sito internet, è meraviglioso, sì, bisogna fantastico. Andarci a vedere. Combina il movimento con l'alimentazione, con la meditazione, con l'esercizio fisico, è davvero un sito da andare a vedere, fatto molto bene, anche molto gradevole di aspetto. Ed è stato in passato anche il direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ho detto bene, professor Berrino, è con noi? Bene, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, doveroso un link, no, da questo punto di vista, perché il professor Berrino partecipa a una trasmissione che Chiedimi se sono felice, no? Sì. Che riguarda, noi abbiamo scoperto tra l'altro che quando tu ti eserciti a interessarti della felicità di un animale, no, da compagnia, in realtà questo esercizio ti aiuta a chiederti se sei felice tu e se è felice la gente che incontra. E della felicità fa parte, cioè uno degli elementi, no, della felicità è la salute. Molto. Certamente, è molto ben chiaro che le persone felici vivono di più delle persone che non sono felici. No? Anche controllando per grandi fattori di rischio della mortalità, come il consumo di alcol, l'attività fisica, l'alimentazione. Quindi, aspetta, che ma ti qua passa... qualcuno ci ascolta e dice: ma il consumo di alcol a me mi rende felice. È vero. Però, insomma, effettivamente sappiamo... utilizziamo molto l'alcol come un momento rilassante nella nostra vita, sì, molto stressante. Sì. Può anche darsi che un dito di alcol ci possa anche aiutare, no, per togliere un pochettino questi drammatici effetti dello stress, ma anche accarezzare il nostro cane ci può aiutare a ridurre lo stress. Ma tra l'altro la cosa che mi ha colpito, no, del suo messaggio, del messaggio della Grande Via, è che sembra che la scienza stia confermando l'antica saggezza popolare. Ma esattamente, perché in fondo la Grande Via non ha mica inventato niente, che una alimentazione sana e parca, che l'esercizio fisico e che la vita spirituale fossero degli elementi di salute, lo dicono le grandi tradizioni religiose e sapienziali di migliaia di anni fa, no? Lo dice anche le scuole mediche tradizionali come la scuola salernitana, cioè non c'è niente di sostanzialmente nuovo, no? Quello che c'è di nuovo è che oggi la scienza faticosamente riscopre che queste raccomandazioni erano sensate, sono ovviamente associate ad una riduzione della mortalità. Bellissimo. Senta, ma allora, visto che parliamo di scienza, no? Cosa ci raccontate voi scienziati delle ultime news che noi esseri comuni dobbiamo assolutamente sapere? Cosa c'è di nuovo in questo campo? Allora, c'è una novità estremamente interessante che proprio il mese scorso il CDC di Atlanta, il centro che controlla lo stato di salute negli americani e negli Stati Uniti, ha annunciato che dopo anni di crescita la speranza di vita degli americani sta iniziando a diminuire. Ah, cioè si muore prima? Cioè si muore prima, si muore un pochettino più, è un piccolo cambiamento sì, che certo. Si vede. Però la cosa che mi ha colpito è che qualche settimana dopo, no, l'Italia ha annunciato la stessa cosa. Ah, bene. Cioè in Italia la speranza di vita è aumentata enormemente negli ultimi 40 anni. Guardate, nel 75 la speranza di vita di una donna era di 75 anni, la speranza di vita di un uomo era di 80 anni. Nel 2015 la speranza di vita di una donna è di 85 anni e di un uomo è di 80 anni, quindi 10 anni abbiamo in 40 anni abbiamo guadagnato 10 anni. No, aspetta che c'è Rosita che ride. Se la ride perché l'aspettativa della donna è cresciuta di più di quella dell'uomo è diminuita. No, anche cioè è cresciuto, entrambi sono cresciuti 10 sì, certo. anni, però rimane una differenza di 5 anni fra la donna e l'uomo, okay. che le donne vivono di più. E anche in Italia tra il 2014 e il 2015 non si vede più questa tendenza all'aumento che era, guadagnavamo mediamente 3 mesi all'anno. Ah, caspita. Ma, ma si sa che cosa è dovuto questa decrescita, diciamo? Allora, si sa cosa è dovuta alla precedente crescita e si può ipotizzare a che cosa è dovuta questa decrescita. Certo. Sapete, la crescita era dovuta soprattutto ai grandi successi della medicina farmacologica e tecnologica, curando la pressione arteriosa, curando il colesterolo alto, i trigliceridi alti, curando i difetti di coagulazione, no? Con le capacità che hanno oggi i medici di entrare e andare a sturare le arterie coronariche, tutte queste tecnologie veramente avanzatissime, no? Questo ha portato ad un aumento della speranza di vita. Non è un aumento della qualità di vita, certo. anzi verosimilmente è un peggioramento della qualità di vita, certo. perché le persone anziane, il 90% delle persone anziane prendono quotidianamente farmaci. Più farmaci. e compresi i farmaci per cercare di controllare i danni dei farmaci. Certo. E questa non è una cosa così allegra, insomma, no? Cioè, la vita si allunga ma non si allarga, diciamo, ecco, non sì, ma è triste, cioè una vita insomma non si parla di qualità, si tende a non parlare mai di qualità della vita, associando piuttosto che la qualità sta nella quantità, ma in realtà non è così. È così proprio, no? Cioè, quello che c'è di grande qualità è l'aumento del business, del business farmacologico, del business delle residenze per anziani, per anziani non autosufficienti, no? Questo è un affare economico colossale che fa crescere il PIL, ma dobbiamo veramente fare crescere il PIL con queste cose qua, no? Ma infatti questa interruzione della crescita negli Stati Uniti è stata interpretata molto, molto correttamente, cioè i progressi della medicina farmacologica, nuovi farmaci sempre più efficaci, non sono più in grado di contrastare l'aumento delle malattie croniche, il diabete, l'infarto, il cancro, l'Alzheimer e così via, che dipendono dal nostro stile di vita. Veramente deleterio, certo. e ancora in peggioramento, no? In Italia i giornali hanno detto un po' di fesserie, che perché non si fanno abbastanza screening per i tumori, che non si fanno abbastanza vaccinazioni, ma in realtà, no, il problema principale sono le malattie croniche, che sono le grandi cause di le malattie croniche dell'anziano, che sono le grandi cause di morte. E allora, allora dobbiamo lavorare per fare in modo che queste malattie croniche non vengano più o regrediscano se ci sono, e sappiamo che è possibile. Noi oggi stiamo lavorando con un grande progetto qui all'Istituto dei Tumori di Milano. Io sono in pensione, ma sono ancora il responsabile di una grande ricerca che è stata finanziata dalla Comunità Europea, che si chiama MEMEME. Io l'ho sentita, uno dei suoi... È una ricerca in cui chiediamo la collaborazione di persone che abbiano la cosiddetta sindrome metabolica, cioè che abbiano la pancetta... Non va bene avere la pancetta, è meglio avere il ventre piatto. Vedi. Che abbiano la pressione un po' alta, la glicemia sopra i 100, i trigliceridi sopra i 150, magari il colesterolo buono sotto i 50, cioè che abbiano queste condizioni che si chiamano dismetaboliche. Queste persone hanno un rischio 10 volte più elevato di sviluppare un diabete, hanno rischio 3-4 volte più elevato di avere un infarto, hanno rischio doppio di avere un cancro, hanno un rischio doppio di avere di ammalarsi di Alzheimer, di ammalarsi di retinopatia, di tutte queste malattie croniche dell'anziano. Allora, ecco l'annuncio che volevo fare, che approfitto della vostra trasmissione, se mi permettete, certo. Che le persone che hanno più di 55 anni e che si trovano in questa condizione, se ritengono, ci contattino per vedere che cosa chiediamo loro. Chiediamo un impegno, un impegno di venire qui all'Istituto dei Tumori almeno una volta al mese. No? Se una persona abita lontano, può partecipare ugualmente? Può partecipare ugualmente, ma deve sapere che noi non gli possiamo rimborsare il viaggio. Certo. Ecco, per cui comunque chiaramente è molto più facile per chi abita a Milano, dintorni, eccetera. Certo. Può partecipare anche una persona che abita lontano a condizione di essere... autosufficiente, di non abbandonarci poi, no? Perché lo studio dura 5 anni, no? Per cui certo. Bisogna... No, devono prendere un impegno che poi dopo ne giovano prima di tutto in salute loro. Quindi se una persona si riconosce in questo profilo, va su internet, mette Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, contatta. Si può mettere su, andare sul sito dell'Istituto dei Tumori di Milano, sul settore ricerca si va su Cascina Rosa e si trova il progetto MEMEME. Benissimo. Comunque si può telefonare a un numero, se mi permettete ve lo do, che è 02 2390, 2390 è il numero dell'Istituto dei Tumori, quindi 2390 3573. 2390 3573. Perfetto, ma posso azzardare che in questo senso continua a essere fondamentale come ci si alimenta, giusto? Ma allora la cosa principale che noi proponiamo a queste persone è di modificare la loro alimentazione. Noi sappiamo benissimo che modificare nella direzione che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè di basare la propria alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi vegetali, Certo. E non industrialmente raffinati. Professore, allora le posso chiedere 10 secondi di pausa e poi finiamo il discorso con lei? Perfetto. Ok, arriviamo a fra subito. Poco. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E stiamo facendo una interessantissima chiacchierata col professor Franco Berrino e le abbiamo chiesto di rimanere ancora un po' in linea perché è talmente interessante quello... Siamo arrivati ad un punto cruciale, esatto, cioè molto... tu quindi il problema, queste malattie croniche come il diabete, gli infarti, tutte queste cose qua sembra essere l'alimentazione. Certo. E lei diceva che esattamente come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità dobbiamo prendere alcuni accorgimenti. Allora, le regole che vengono raccomandate ai cittadini europei anche è stato redatto nel 2014 il cosiddetto codice europeo contro il cancro, ecco. Con delle raccomandazioni per i cittadini, ma queste raccomandazioni le abbiamo viste applicandole ai nostri studi, vedendo i nostri studi su centinaia di migliaia di persone che ci hanno dato informazioni sulla loro vita, sul loro modo di mangiare, sul tabacco che consumano e così via. Abbiamo visto che chi rispetta queste raccomandazioni si ammala meno di cancro, ma ancor meno si ammala di infarto, ancor meno di malattie del polmone, di malattie croniche in generale, ancor meno di diabete. Certo. Per cui fondamentalmente queste raccomandazioni servono per aiutarci a non ammalarci, ad andare verso una vecchiaia autonoma, dignitosa. No, è attiva, di qualità. Non pesare sui nostri figli. Il regalo migliore che noi possiamo fare ai nostri figli è quello di non ammalarci di malattie come l'Alzheimer, di malattie come il cancro anche, ma l'Alzheimer è ancora peggio perché l'Alzheimer non uccide, no? E quindi rovina la vita delle famiglie, no? Sì. E ci sono sempre più indizi, ma sempre più forti, no? Si sa per esempio che i diabetici hanno un rischio doppio di ammalarsi di Alzheimer, e con l'alimentazione noi possiamo prevenire il diabete, possiamo anche fare regredire il diabete e fare chi ha queste condizioni di sindrome metabolica, no? Tutte queste condizioni possono regredire, ma dimostrato da studi sperimentali sull'uomo, con l'alimentazione mediterranea tradizionale, quella di una volta veramente, quando si mangiava il pane integrale, perché quando si macinava il pane con le mulini a pietra non si riusciva mica a fare la farina 00, che era molto nociva. Si mangiavano tutti i giorni i legumi, ma la nostra meravigliosa pasta e fagioli, la verdura e la frutta, e la frutta oleaginosa, anche le noci, nocciole, mandorle. La gente dice no, non le mangio perché fanno ingrassare. No, non fanno ingrassare, anzi aiutano a dimagrire chi è sovrappeso. Io professore perché sono... Sì, dica. Scusami, mi sono perso. No, dicevo, io professore sono venuta a fare il corso a Cascina Rosa con... Ah, venuta a fare un corso di cucina. Assolutamente da noi, sì, con Giovanni Allegro, e tutte queste cose le ho apprese e cerco sempre, ogni tanto sgarro, e quando sgarro... Ma non le applica, cioè, no, non è vero. Benissimo. No, non è vero, le applico, ogni tanto sgarro, e Angelo mi dice, se ti vedesse il professor Berrino ti bacchetterebbe, e gli dico, ho capito, ogni tanto però. Quindi voglio dire, è verissimo, fra l'altro poco tempo fa, neanche un mesetto fa, hanno fatto una trasmissione televisiva dove i più longevi del mondo, fra i paesi, due o tre paesi al mondo dove ci sono gli uomini e le donne più longeve, uno è la Sardegna. Quando sono andata a intervistare questi nonni di 103-104 anni, lucidissimi e vispissimi, quando gli chiedevano che vita avevano fatto, sempre movimento per i campi e mangiare, movimento e mangiare esattamente quello che dice lei. Quando gli chiedevano ma la carne e il pesce, quando c'è? Era Questa era la risposta. Esattamente, questo vale per i sardi, i vecchi sardi, vale per gli Hunza, vale per gli abitanti di Okinawa. Fondamentalmente la loro alimentazione comprendeva anche dei prodotti animali, ma come nell'alimentazione tradizionale mediterranea, ma era veramente una volta ogni tanto. Sì. No? Anche oltretutto alimenti animali di una qualità diversa da quella che ci propone oggi l'industria alimentare. La raccomandazione del Codice Europeo contro il Cancro dice: limitate il consumo di carni rosse ed evitate il consumo di carni processate, cioè di salumi da noi prevalentemente. Dice evitate. L'altra raccomandazione è: limitate il consumo di alimenti che ad alta densità calorica, cioè sono tante calorie in poco spazio, che sono gran parte degli alimenti che vengono pubblicizzati in televisione, ed evitate le bevande zuccherate. Già queste poche cose hanno un effetto clamoroso sulla nostra salute. Allora, io mi ricordo una cosa che ho appreso da lei in internet, ed è stato un consiglio, secondo me, oltre che divertente, molto utile. Cioè, lei dice: per fare una buona spesa, fate finta di portarvi al supermercato la vostra bisnonna. Cioè, non la nonna, perché è già condizionata culturalmente. La bisnonna è tutto quello che non riconosce come un alimento, non lo comprate, giusto? Certo. Queste sono queste bellissime aforismi di Michael Pollan, questo giornalista americano che ha scritto questo bellissimo libretto in difesa del cibo semplice. La cosa importante, noi facciamo i corsi di cucina anche per spiegare alle persone che è facile cucinare queste cose, basta un po' di organizzazione. La gente dice: ma come faccio a cucinare il riso integrale che ci vogliono 50 minuti? Ma Nicolo, devi cucinare alla sera quando arrivi a casa tardi dall'ufficio, lo metti su alla sera per i due giorni successivi e ce l'hai pronto. Quindi è soltanto una questione di organizzazione. Sì, è vero, di riorganizzare le idee, ma io che lo sto iniziando a fare mi rendo conto che è vero, tanto del tempo uno lo deve dedicare, a meno che uno non compra tutto precotto e preconfezionato. E lì si rischia grosso, da molti punti di vista, anche perché se uno mangia solo i cibi industriali, mangia solo cibo sterile. Eccoci. E invece è molto importante mangiare i microbi che ci sono naturalmente sul nostro cibo. Se noi mangiamo l'insalata già lavata del supermercato che è stata trattata con il cloro, non c'è più un microbo lì. Mentre invece l'insalata dell'orto ha un sacco di microbi della terra che aiutano il buon funzionamento del nostro tubo digerente. Madonna, professore, io farei tutta fare una trasmissione con lei. Possiamo fare una trasmissione insieme in radio, se vuole. Facciamo una trasmissione sul rispettare i microbi. Sì, la facciamo assolutamente. Allora, a proposito di microbi, non so se sono animali o vegetali, non so se quadrano tanto con la vostra alimentazione, ma noi dobbiamo rispettare i microbi che ci aiutano a vivere bene. Assolutamente sì. No, questa parola qui di rispetto è quello che io ho tratto, insomma, dagli insegnamenti del professor Franco Biorrino. Cioè, sembra che questa cioè non è, mentre prima si diceva cioè scegli o tu fai ammazzare gli animali, tratti male il pianeta, eccetera eccetera, perché tu ne guadagni in salute e in felicità, o ti occupi di te o ti occupi del resto. Invece sembra un cioè soltanto rispettando riesci a stare in salute. Mangiando bene si salva il pianeta. Si salva il pianeta. Esatto. Salvi te, salvi il pianeta, è l'unico modo per. Allora, ringraziamo. No, aspetta, però prima di ringraziarlo volevo che ci spiegasse, prima parlavamo di me, se ci spiegava qual era il significato. Allora, me sta per sindrome metabolica. Noi ci rivolgiamo alle persone di mezza età e anziane che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno la pancetta, qualche problema dei grassi nel sangue dello zucchero o la pressione alta, quindi sindrome metabolica. E secondo me vuol dire dieta mediterranea, perché la vecchia, antica dieta mediterranea, quella che si faceva negli anni 40 nel sud dell'Italia, in Grecia, nel sud della Spagna, ha dimostrato di essere associata a una potentissima prevenzione delle malattie croniche. Ed è la dieta basata su cereali integrali, legumi, verdure, frutta, frutta legnosa e occasionalmente un prodotto animale, un pesce oppure un formaggio, ma ma questa una volta ogni tanto, sì. Ecco. E il terzo me sta per metformina. Uh-huh. La metformina è un vecchissimo farmaco usato da 60 anni per la cura del diabete, di cui si è scoperto il meccanismo di azione soltanto oggi, un farmaco uh-huh. che non è per niente tossico e che potrebbe aiutare le persone che prendono altri farmaci a liberarsi dagli effetti collaterali dei farmaci per la pressione alta, per abbassare il colesterolo, proprio perché uno dei meccanismi d'azione importanti di questo farmaco è che attiva gli stessi geni che vengono attivati dalla restrizione calorica e del digiuno. Noi sappiamo da più di 100 anni che se agli animali diamo un po' meno da mangiare di quello che mangerebbero se avessero una disponibilità illimitata di cibo, si ammalano meno di malattie croniche e vivono di più. E questo succede attivando questi particolari geni che sono anche attivati dalla metformina. Per cui chiaramente bisogna che ci sia la disponibilità di prendere questa pillolina di metformina, ma è una strada comunque molto interessante perché la partecipazione delle persone finora è molto positiva. Invitiamo naturalmente, se c'è il marito con la sindrome metabolica e la moglie no, invitiamo comunque a venire ai corsi di cucina, sia il marito sia la moglie, viceversa, no? Perché... Allora io volevo ricordare il numero di telefono da chiamare per chi avesse desiderio di partecipare alla ricerca, che è 02 23 90 35 73. E che se chi perdesse la nostra puntata può andare sui podcast di radio24.it al programma Chiedimi se sono felice e riascoltarsi, così magari se non avete da scrivere scrivete così il contattano il professor Berrino. Professore, guardi, siamo arrivati alla fine, grazie mille grazie della infinite. Sua disponibilità, grazie a voi, buona continuazione, grazie speriamo di vederci Berrino. Presto bene, ciao a tutti signori, siamo arrivati alla fine da Rosita Celentano e Angelo Vaira, arrivederci.